Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 7 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio e TV. Io sono sempre Caterina e qui con me c'è Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, ciao Caterina. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko ore 9 e poi più tardi su Lepida TV canale 118 e Teletricolore canale 636. Vi ricordo di andare sulla pagina www.ideaginger.it e di cercare il nostro progetto Eduradio e TV per donare qualche soldino, per farci continuare anche d'estate. Noi siamo partiti, lo ricordo, il 18 gennaio, siamo ripartiti il 18 di gennaio di quest'anno con una trasmissione che è diventata sempre di più televisiva. Prima, lo scorso anno, era molto più radiofonica e adesso invece stiamo sfruttando a tutto tondo il mezzo televisivo, ma anche la radio naturalmente, per essere presenti in ogni cella del carcere, ma anche in ogni stazione radiofonica. Lo facciamo insieme ad altre associazioni, enti, volontariato, scuola, che si occupano per l'appunto di carcere e detenzione. Lo facciamo anche per promuovere una sensibilità diversa e senza pregiudizi sul carcere e il mondo dell'internamento. Ma partiamo con le nostre notizie. Siamo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove l'associazione Ad Alta Voce ha prodotto uno spettacolo musicale nel carcere femminile. Leggo la notizia da anteprima24.it, perché è stato aperto il 22 giugno lo spettacolo musicale nel carcere femminile di Pozzuoli, in cui si è tenuta la manifestazione musicale promossa dal garante campano delle persone prive della libertà personale Samuele Ciambriello e realizzata dall'associazione culturale Ad Alta Voce, presieduta dal maestro Carlo Morelli. Questa manifestazione è stata aperta dal citato di una detenuta che ha ricordato nelle parole iniziali quanto è difficile la detenzione quando si arriva in spazi così ristretti e anche con situazioni a volte di gerarchie che si vengono a creare quando è presente anche un po' il bulletto del villaggio. Caterina, senti, come sono riusciti a realizzare un progetto musicale di così grossa portata? Avranno dovuto fare degli incontri di preparazione? Insomma, la macchina organizzativa non è facilissima, soprattutto in carcere. È stata una macchina organizzativa, come dici tu, molto complessa, caratterizzata da diversi incontri musicali e teatrali nel carcere stesso. Per l'evento 9 detenute sono state preparate dal maestro di canto Carlo Morelli e da altri docenti e si sono poi esibiti in brani tipici del repertorio della canzone napoletana. E la cosa veramente carina anche è stata che lo stesso Samuele Ciambriello si è esibito con le detenute cantando Sapore di sale e anche regalando un po' un sorriso a tutto il pubblico in platea. E poi lui stesso, Ciambriello, ha dichiarato: la musica, il teatro, la cultura sono potenti antidoti per combattere mafie e disuguaglianze. L'anagramma del carcere è cercare un nuovo punto di partenza per costruire un futuro migliore. Sì, convengo, la cultura e la bellezza sono veramente dei timoni proprio. E in questo caso mi sembra di capire comunque che vinca l'accostamento tra la musica, l'arte e la bellezza. Eh sì, perché dovete sapere che l'associazione Ad Alta Voce è da diversi anni che collabora col professor Ciambriello promuovendo la cultura della bellezza nelle carceri, nella convinzione che le arti possano anche quelle salvare le persone dall'abbruttimento e dal degrado delle periferie. A fine manifestazione anche la direttrice dell'istituto, che si chiama Maria Luisa Palma, ha espresso il suo ringraziamento dicendo: in questa giornata abbiamo voluto omaggiare le donne e i loro diritti. E infine anche era presente all'incontro la senatrice della Commissione Giustizia Valeria Valente, che ha dichiarato: nella vita tutti possono sbagliare, nessuno deve essere punito, questa esperienza, anche quella della reclusione, deve essere vissuta come rieducazione, una rieducazione anche verso se stesse, perché solo credendo in sé si può godere di una vera e propria libertà. Io intanto, ha aggiunto lei, lavorerò affinché ogni donna possa avere pari opportunità, perché solo in questo modo si può essere parte integrante di una società. Caterina, io ho sbirciato un po' tra le tue note. Secondo me lancerai una canzone che ha a che fare con la libertà. Infatti hai proprio ragione, lanciamo Sergio Endrigo con Canzone della Libertà, è un testo di Luciano Lucignani, musica di Morricone, cantata da Sergio Endrigo in una bellissima interpretazione. È inutile dirlo, questo è un brano del 1968 che più politico di così non potrebbe essere, tant'è vero che più che riflessioni spirituali o filosofiche c'è una precisa dichiarazione di intenti. Noi ad ogni costo, noi ce la prenderemo la libertà. Ascoltatela. È libertà. Quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Specialmente quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Due Radio TV dopo questa canzone sulla libertà cantata da Sergio Endrigo. Antonella, la finestra sul mondo ce l'apri tu oggi dall'Africa e per la precisione in Sahara Occidentale. Sì, andiamo nel deserto praticamente e andiamo a visitare una popolazione originaria proprio del Sahara Occidentale che si chiamano i Sahrawi, che da anni combatte una lotta contro la dominazione marocchina imposta senza il consenso delle Nazioni Unite, tra l'altro dopo la decolonizzazione del dominio spagnolo. I campi profughi del campo Sahrawi si trovano nel cuore dell'Algeria, nei pressi di Tindouf, al confine con il Marocco. Il conflitto armato ha avuto però un ruolo centrale nel promuovere spazi di autonomia per le donne sahrawi, che sono diventate le protagoniste del cambiamento in realtà. Ora vi faccio soltanto un breve accenno storico per inquadrare meglio la situazione. Il conflitto tra il Marocco e il fronte Polisario affonda le sue radici nella storia coloniale del Sahara occidentale. Colonia fino al 1884, poi provincia del Regno di Spagna fino al 1975, il Sahara occidentale rientra tra i territori non autonomi stabiliti dalla quarta commissione dell'Assemblea Generale dell'ONU. All'occupazione della loro terra da parte del Marocco e della Mauritania, i Sahrawi cercarono invano di resistere con la forza della disperazione di chi si vede ovviamente sottratta alla propria esistenza. Conteso poi fra il movimento nazionalista Sahrawi incarnato dal fronte Polisario, il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, il Sahara occidentale è stato oggetto di un lungo conflitto conclusosi nel 1991 con la stipulazione di un cessate il fuoco e l'invio di una missione delle Nazioni Unite. Allo scoppio della guerra, più della metà della popolazione sahrawi scappa dal territorio per rifugiarsi nei pressi della città algerina di Tindouf, dove tuttora vivono circa 200.000 persone divise fra 5 campi. Antonella, ma facci un po' un'analisi di questo popolo nomade di rifugiati. Chi sono i Sahrawi? I Sahrawi, come giustamente hai detto, sono un popolo nomade di rifugiati che da oltre 40 anni vive nel deserto dell'Algeria. La loro origine è riconducibile all'immigrazione degli arabi Maquil, provenienti dallo Yemen e dal loro incontro con tribù di nomadi berberi. I Sahrawi sono musulmani sunniti e parlano la lingua Hassaniya, simile al moderno arabo standard. Tra l'altro, Caterina, il deserto in cui vivono i Sahrawi è costituito da rocce e scarsa vegetazione, quindi diciamo un territorio piuttosto inospitale. Nelle loro tende spesso manca l'acqua corrente e l'elettricità, mentre le case più costose sono costruite con mattoni di sabbia che rischiano ogni volta che piove tantissimo di crollare. Tutto ciò fa sì che l'economia della popolazione sia principalmente supportata dagli aiuti umanitari, di fatto. E nonostante questo, i Sahrawi rappresentano un esempio per aver trasformato la condizione di esilio in un esperimento di autogestione. L'organizzazione dei campi, la distribuzione degli aiuti, la vita sociale e culturale, le istituzioni sono nelle mani dei profughi stessi e del Fronte Polisario, il movimento di liberazione nazionale creato nel 1973 e che rappresenta il principale interlocutore diplomatico e politico dei Sahrawi. E questa realtà ha permesso però alle donne Sahrawi di trovare maggiori spazi di espressione in ambito pubblico e privato. Ed è proprio nei campi che le donne gestiscono la distribuzione degli aiuti alimentari, dei servizi sanitari e educativi. È molto interessante questa partecipazione delle donne. Allora io mi chiedo e ti chiedo qual è l'approccio di genere, quindi delle donne nei contesti di conflitto come questo di cui ci stai parlando. Allora, è importante avere un'ottica e un approccio di genere, perché i conflitti non sono mai neutri da questo punto di vista, ed è essenziale applicare il genere anche come metodo di analisi per comprendere come le relazioni di potere tra uomini e donne sono definiti appunto in contesto di conflitto e post-conflitto e nei processi di pace. In contesti di guerra, infatti, spesso diversi fattori si trasformano magari in una fonte di empowerment per le donne, che consente loro appunto di compiere delle attività diverse da quelle tradizionalmente assegnate dalla società. Mentre per esempio Caterina, gli uomini erano in guerra, le donne erano incaricate della creazione e dell'organizzazione dei campi, della fondazione di scuole, asili nidi e centri sanitari. L'importanza, tra l'altro, dell'Unione Nazionale delle Donne Sahrawi, creata nel 1974, è significativa nel rendere visibile la partecipazione delle donne nella società Sahrawi. E questa Unione Nazionale è collegata sempre al Fronte Polisario, però comunque è una delle cose più diciamo, rappresentative, proprio perché tratta di femminismo musulmano con sfumature diverse rispetto a quelle delle correnti femministe occidentali, e combatte concretamente per avere il suo posto nella società. Antonella, grazie. E stacchetto di oggi e poi musica. Eh sì, ragazzi, siamo sempre con lo stacchetto virtuoso che mandiamo tutti i giorni perché vogliamo ottenere il vostro consenso e il vostro aiuto. Però poi la musica di oggi è sempre dell'autrice Angélique Kidjo e la canzone Mint for Me dell'album Mother Nature. Ascoltiamoli. Liberi Dentro ed Euradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. L'associazione Il Podeschi per il Carcere di Bologna ha preso parte al progetto Eduradio Liberi Dentro attraverso la partecipazione a tre diversi laboratori. Liberation Prison Project è con Eduradio per parlare di buddismo. Per condividere esperienze di liberazione della mente, la nostra vera prigione. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio TV. Where the stars and spangles every single face, colors of a rainbow, where the music plays out of every window, people in the street singing harmony, mama way. From Milano or from LA, I'll take you to a place we don't have to struggle. Money ain't a thing where the love you give's the way you pay, so we can both be royal. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Abbiamo sempre con noi Laura Assarita, operatrice presso Cefal nell'ambito dell'esecuzione penale esterna. Buongiorno Laura, bentornata. Buongiorno, ciao. Allora, abbiamo detto l'esecuzione penale esterna, quindi rivolta alle persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione. La scorsa volta abbiamo parlato di lavoro e del che cosa dovrebbe fare una persona in misura esterna all'istituto penale per essere presa in carico da parte degli assistenti sociali e avviare così un proprio percorso per l'inserimento lavorativo, come per esempio potrebbe essere il tirocinio. E allora, parlando di tirocinio, qual è il vostro criterio di valutazione come CEFAL al fine di avviare appunto un tirocinio con la persona in misura alternativa alla detenzione? Sì, allora noi, come dicevamo l'altra volta, riceviamo le segnalazioni dagli uffici dal web, quindi dall'assistente sociale della persona, che ha valutato che la persona è adeguata e ha voglia ed è pronta da tutti i punti di vista per accedere a un percorso di tirocinio. L'assistente sociale valuta questo e ci manda la persona. Il colloquio che invece fa la persona con noi non è di vera e propria valutazione, nel senso noi accettiamo tutte le segnalazioni e il colloquio che facciamo, nel colloquio non è che scegliamo se la persona va bene o no, assolutamente, non è come un colloquio di lavoro. Noi prendiamo in carico la persona e facciamo un colloquio di orientamento e informazione alla persona, che è una cosa diversa, cioè cerchiamo di capire quanto la persona sia effettivamente interessata e quali opportunità ha sulla base delle sue competenze, delle sue esperienze, delle sue aspettative. Se abbiamo dei diversi percorsi da proporre, per esempio un percorso di formazione o un percorso direttamente di tirocinio, cerchiamo di capire con la persona qual è il percorso, per esempio, più adatto a lui, lei, se vuole fare della formazione, se può essere utile, o se vuole passare direttamente al tirocinio, e se in questo caso quale ambito preferisce, la ristorazione, il magazzino, un percorso a contatto con le persone, un lavoro più isolato, più o meno faticoso. È molto importante questa fase, ma scegliamo insieme alla persona se fare il percorso e quale fare. Quindi in questo dialogo con la persona, alla fine ci sono anche delle difficoltà che la persona riscontra durante il tirocinio e poi anche in quali condizioni dovrebbe mettersi la persona per svolgere un buon tirocinio? Sì, le difficoltà chiaramente sono quelle che ci sono per tutti legate all'inizio di un nuovo percorso. È chiaro che si tratta di persone che molto spesso vengono da anni di inattività, e da anni in cui non hanno lavorato, ci sono persone che non hanno mai lavorato, ci sono persone che non hanno mai lavorato in regola. Quindi si tratta di mettersi di fronte a un mondo che ti chiede delle cose, perché è chiaro che il tirocinio è anche un periodo di prova, un periodo in cui devi imparare, ma devi rispettare delle regole, devi reinserirti in un mondo che ti chiede comunque di stare a delle regole. Quindi le difficoltà sono quelle che ci sono per tutti, ma magari a volte dopo tanti anni, dopo un periodo molto lungo, sono maggiori. Bisogna mettersi nelle condizioni di rispettare un impegno, e quindi nelle condizioni anche logistiche, materiali, concrete, di poter arrivare al luogo di lavoro, di avere logisticamente del tempo, di sapere dove lasciare i figli se sei una donna, purtroppo questo compete alle donne, oppure di sapere come raggiungere un lavoro lontano se non hai i mezzi di trasporto, che capita alla maggior parte delle nostre persone, diciamo. Ma comunque si tratta di fronteggiare quelle che noi chiamiamo le competenze trasversali, di acquisirle, è quello che bisogna avere in ogni lavoro. Quindi sembrano cose banali, ma non lo sono: la puntualità, il rispetto per il lavoro degli altri, l'ascolto delle indicazioni, il buon rapporto con gli altri colleghi, che non è scontato, che tutti quelli che accolgono le persone in tirocinio chiedono, che non vengano creati troppi problemi, che si stia tranquilli, se si ha un problema si chiama il tutor, non lo si affronta da solo. Insomma, ci sono abbastanza cose da stare attenti, a cui stare attenti, soprattutto nel primo periodo, più che quello che attiene al lavoro vero e proprio, che invece si va lì per imparare, ma è tutto il contesto attorno che è importante per il vero e proprio reinserimento. Grazie Laura, e grazie per queste indicazioni che sono quelle che aprono alle opportunità successive, ma di questo parliamo dopo il brano musicale che ci lanci tu. Pino Daniele, I Soppazzi. E rieccoci sulle note di Pino Daniele, ritorniamo sempre con te, Laura Attarita, per parlare dei tirocini per chi è in misura alternativa alla detenzione. E prima ti ho accennato alle opportunità, e allora proprio ti chiedo se il tirocinio può essere un'opportunità e quali sono anche le aspettative delle persone prima di cominciare. Allora, il tirocinio può essere assolutamente un'opportunità. Serve per reinserire la persona, in teoria per avere un'assunzione a fine tirocinio, e l'aspettativa è sempre questa, giustamente. Però noi diciamo sempre alle persone realisticamente che i percorsi non sempre vanno in questa direzione, per vari motivi, per delle difficoltà delle aziende, per le difficoltà nel tirocinio stesso. Le aziende spesso non sono in grado di assumere dopo solo 3 mesi. Però il tirocinio rappresenta sempre comunque un'opportunità, perché l'opportunità di imparare un nuovo lavoro, conoscere nuove persone che ti possono portare a trovare un nuovo lavoro, fare un'esperienza a tutto tondo, relazionale e professionale, ampliare il tuo curriculum in modo che ti puoi presentare dopo questi 3 mesi di tirocinio dicendo: io ho fatto 3 mesi di tirocinio in questo magazzino, in questo ristorante, non sei a corto di esperienze, anzi, oltre che di guadagnare qualcosa e di renderti un minimo indipendente. E quindi comunque rappresenta un'opportunità da sfruttare al massimo. Grazie Laura. E l'ultimo brano musicale tocca sempre a te. Cranberries, Dreams. Thank you. Rieccovi, abbiamo appena ascoltato Laura Starita per il CEFAL, dove il tema è sempre la formazione per il lavoro, i tirocini e i corsi di formazione. Lo ascolteremo ancora e ancora, sempre su questo, ma tra poco le nostre rubriche, oggi parliamo di, dove avremo il CPA di Ferrara con Sonny Boy e i dialoghi sulla cittadinanza, dove avremo come ospite il professor Paolo Branca. Scriveteci, mi raccomando, redazione liberidentro@gmail.com per scriverci via email, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, per inviarci direttamente una posta. Ringrazio Pasquale Pitagnello, sempre al montaggio di queste puntate, per l'ultima settimana, ci mancherà moltissimo, e ovviamente Antonella Cortese, sempre qui con me in regia di redazione. Buona giornata a tutte e tutti e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.